Capitolo 3. Qualche altra lezione. La mattina seguente mi alzai animata da buone speranze, nonostante le delusioni già provate, ma scoprii che vestire Marianna non era una cosa da poco, perché i suoi capelli abbondanti dovevano essere impomatati, intrecciati in tre lunghe code legati con tre nastri, compito che le mie dita inabili trovavano molto difficoltoso. Ella mi disse che la bambinaia lo faceva in metà del tempo e il suo stato di continua impazienza rendeva la faccenda ancora più lunga. Quando fu terminata, ci recammo nella sala studio dove trovai l'altro mio scolaro e chiacchierai con i due fino all'ora di scendere a colazione. Finito il pasto e scambiate con la signora Bloomfield alcune parole di cortesia, ci ritirammo nuovamente nella sala studio e cominciammo il lavoro della giornata. Trovai i miei alunni davvero indietro, ma Tom, sebbene nemico di ogni specie di sforzo mentale, non era privo di capacità. Marianna a stento leggeva qualche parola ed era tanto svogliata e pigra che con lei era quasi tempo gettato via. Pertanto, a forza di fatica e di pazienza, giunsi a ottenere qualche cosa durante la mattina e poi accompagnai i miei giovani allievi in giardino e nei fondi vicini per una breve ricreazione prima del pranzo. Le cose procedettero abbastanza lisce, solo mi accorsi che i due bambini non comprendevano che dovevano venire con me. Fui io a dover andare con loro, dovunque preferissero condurmi. Dovetti correre, camminare o star ferma come saltò loro in mente. Questo, secondo me, era capovolgere l'ordine delle cose ed era doppiamente spiacevole per il fatto che in quella e in altre occasioni essi davano la preferenza ai luoghi più sporchi e alle occupazioni più sconvenienti. Ma non c'era rimedio, o dovevo seguirli o separarmi completamente da loro, avendo l'aria in tal modo di trascurarli. Quel giorno manifestarono un attaccamento tutto speciale per lo stagno in mezzo alla prateria, dove rimasero ad agitare l'acqua con bastoni e conciottoli per una buona mezz'ora. Avevo il terrore che la madre li vedesse dalla finestra e mi rimproverasse che invece di farli passeggiare li lasciassi così a infradiciarsi i vestiti e a bagnarsi i piedi e le mani, ma nessun ragionamento, minaccia o preghiera riuscì a strapparli di là. Non la madre, ma qualcun altro li vide. Un signore a cavallo era entrato dal cancello e si era avvicinato. Si fermò a pochi passi da noi e, chiamando i bambini con voce secca e adirata, ordinò: «Uscite da quell'acqua!» «Signorina», disse poi, «immagino che lei sia la signorina Gray. Mi sorprende che gli permetta di sporcarsi i vestiti in quella maniera. Non vede come si è imbrattato l'abito della signorina Bloomfield? E poi tutti e due senza guanti, santo cielo, mi permetta di esigere che in avvenire li terrà almeno decenti!» Così dicendo, si girò e, sempre a cavallo, arrivò fino a casa. Costui era il signor Bloomfield. Fui sorpresa che avesse dato del signorino e della signorina ai suoi figli e ancora di più che avesse in modo così scortese rimproverato me, la loro governante, che non avevo ancora fatto la sua conoscenza. Poco dopo, la campana ci chiamò raccolta. Pranzai coi bambini mentre lui e la signora Bloomfield facevano colazione alla stessa tavola. La sua condotta non contribuì a innalzarlo nella mia stima. Era un uomo di statura comune, piuttosto al di sotto che al di sopra della media, più magro che grasso, fra i 30 e i 40 anni, con la bocca larga e una carnagione pallida e opaca, occhi azzurri slavati e capelli color della canapa. Aveva davanti un arrosto di cosciotto di montone. Servì la signora Bloomfield, i bambini e me, a cui ordinò di tagliare la carne ai bambini. Poi, dopo aver rigirato il pezzo di montone da varie parti e averlo esaminato in diversi punti, asserì che era immangiabile e chiese del manzo freddo. «Che cos'ha dunque il montone, mio caro?» chiese la moglie. «È troppo cotto, non sentite, signora Bloomfield, che ha perso tutto il sapore?» E non vedete che il suo buon sugo rosso si è asciugato? Bene, credo che il manzo vi vada bene. Gli fu messo dinanzi il manzo e cominciò a tagliarlo con la più palese espressione di malcontento. Che cos'ha il manzo, signor Bloomfield? Vi assicuro che lo credevo ottimo. Eh sì, era ottimo, il più bel pezzo immaginabile, ma è completamente rovinato, rispose. Ma come? Ma come? Ecco, non vedete com'è tagliato? Santo cielo, è proprio seccante. L'hanno dovuto rovinare in cucina allora, perché sono certa che ieri qui l'ho tagliato proprio a modo. Senza dubbio l'ha rovinato in cucina, selvaggi. Santo cielo, ma si è mai visto un così bel pezzo di manzo tanto massacrato? Ma ricordate che se in avvenire un piatto decente lascia questa tavola in cucina, non lo tocchino. Ricordatevelo, signora Bloomfield. Nonostante lo stato disastroso del manzo, il signore cercò di tagliarsene qualche fetta scelta di cui mangiò qualche poco in silenzio. Quando parlò di nuovo fu in tono meno scontento per chiedere che cosa ci fosse per pranzo. Tacchino e gallo di brughiera, fu la breve risposta. E che altro? Pesce? Che qualità di pesce? Non so. Non lo sapete? Gridò, sollevando solennemente lo sguardo dal piatto e per la sorpresa tenendo sospesi in aria coltello e forchetta. No, ho detto al cuoco di comprare del pesce e non ho specificato. Ah, bene, questo supera tutto. Una signora pretende di governare la casa e non sa neppure che pesce c'è per pranzo? Comanda di comprare il pesce e non specifica la qualità del pesce? Forse, signor Bloomfield, sarà bene che in avvenire ordiniate il pranzo voi. Non fu detto più nulla. E io fui contenta di uscire dalla stanza con i miei scolari perché non mi ero mai sentita così mortificata e confusa in vita mia per una colpa non mia. Nel pomeriggio ci rimettemmo alle lezioni, poi uscimmo di nuovo, poi prendemmo il tè nella sala studio, poi vestii Marianna per il pranzo e quando lei e suo fratello scesero in sala, approfittai del momento per cominciare una lettera ai miei cari. Ma i bambini salirono prima che fossi giunta a metà. Alle 7 dovetti mettere Marianna a letto, poi giocai con Tom fino alle 8 e poi anche lui andò a letto. E così finii la lettera e tossi dal baule i miei vestiti, poiché non avevo avuto ancora il tempo di farlo. E finalmente andai a riposare anch'io. Ma questa che ho descritto non è che la relazione di una giornata molto rosea. Il mio compito di istitutrice e di sorvegliante, invece di alleviarsi di mano in mano che i miei allievi ed io ci abituavamo gli uni all'altra, divenne più arduo a misura che si manifestarono i loro caratteri. Mi avvidi ben presto che chiamarmi governante era semplicemente ridicolo. I miei scolari non possedevano il concetto dell'obbedienza più di un puledro selvaggio e indomito. La paura della natura collerica del padre e il terrore d'essere puniti quando si adirava li teneva irrispettosi in sua presenza. Le bambine inoltre avevano il timore della collera della madre e il ragazzo di tanto in tanto poteva essere indotto a obbedire nella speranza di una ricompensa, ma io non avevo ricompense da offrire. Quanto alle punizioni, mi era stato fatto capire dai genitori che si riservavano essi quel privilegio e che tuttavia si aspettavano che tenessi buoni i figlioli. Degli altri bambini potevano essere guidati dalla paura di vedermi adirata o dal piacere di essere lodati, ma né l'una né l'altra cosa avevano effetto su costoro. Il signorino Tom, non contento di rifiutarsi di obbedire, si atteggiava a padrone e manifestava la decisione di tenere soggetta non soltanto la sorella, ma anche la governante, mediante il prediletto uso delle mani e dei piedi. E siccome era per la sua età un ragazzo grande e robusto, questo non rappresentava un inconveniente da poco. In quel caso, qualche sonoro scapaccione avrebbe potuto mettere a posto le cose, ma siccome sarebbe andato immancabilmente a raccontare qualche panzana a sua madre, che con la fiducia incrollabile che aveva nella sincerità del bambino, ella avrebbe creduto, invece avevo già scoperto che gli non era affatto incontestabile, decisi di trattenermi dal picchiarlo anche per mia stessa difesa. E nelle crisi di collera più violente, la mia unica risorsa era di girarlo sul dorso e di reggergli le mani e i piedi finché la furia non si fosse un poco calmata. Alla difficoltà di impedirgli di fare quello che non doveva, c'era da aggiungere quella di costringerlo a fare quello che doveva. Spesso avveniva che rifiutava recisamente di studiare o ripetere le lezioni o persino di guardare il libro. Anche qui sarebbe stata utile una buona bacchettata, ma siccome i miei poteri erano limitati, dovevo trarre il miglior profitto da quello di cui disponevo. Le ore di studio e gioco non erano fisse e così decisi di dare ai miei allievi dei compiti che con un'applicazione moderata potessero compiere in breve tempo. Anche se ero stanca e comunque essi si mostravano cocciuti, solo l'ordine formale dei genitori mi avrebbe indotto a lasciarli uscire dalla sala studio. Mi fossi pure dovuta sedere con la sedia contro la porta per tenerli dentro. Pazienza, fermezza e perseveranza erano le mie sole armi e queste risorsi di utilizzare al massimo. Stabilii di mantenere sempre le minacce e le promesse fatte e per questa ragione dovevo andar cauta e non far minacce e promesse che non potessi mantenere. Mi astenni rigorosamente da ogni irritabilità e indulgenza, poiché Quando si fossero comportati bene, sarei stata il più possibile buona e compiacente, in modo che comprendessero la differenza tra una condotta buona e una cattiva. Avrei ragionato con loro nel modo più semplice ed efficace. Quando li avessi rimproverati o mi fossi rifiutata di assoggettarmi ai loro desideri, dopo qualche grossa colpa, mi sarei mostrata più addolorata che incollerita. Avrei reso i brevini e le preghiere che dovevano recitare chiari e intellegibili per loro. Quando avessero detto le preghiere la sera e avessero chiesto perdono delle loro colpe, gli avrei ricordato i peccati commessi nella giornata, con solennità, ma con molta bontà, per evitare che in loro sorgesse uno spirito di opposizione. I cattivi avrebbero recitato gli inni di penitenza, i buoni quelli lieti, e tutto quello che avrei insegnato l'avrei esposto in una forma il più possibile interessante, col solo scopo apparente di avere in vista il loro divertimento immediato. Con questi mezzi speravo col tempo di giovare ai bambini e di procurarmi l'approvazione dei loro genitori e anche di convincere i miei familiari che non ero così priva di abilità e di accortezza come supponevano. Sapevo che le difficoltà da superare erano grandi, ma sapevo anche, o almeno credevo, che perseveranza e pazienza potevano vincerle, e sera e mattina imploravo aiuto dalla Divina Provvidenza. Ma fosse colpa dei bambini incorreggibili, dei genitori irragionevoli o colpa mia, che ero su una strada sbagliata e incapace di portarli a buon porto. Il fatto è che tutta la mia volontà e i miei strenui sforzi non approdarono ad altro che a divertire i bambini, scontentare i genitori e tormentare me. Il compito di istruire mi era arduo, sia per il corpo che per lo spirito. Dovevo correre all'inseguimento dei miei allievi, portarli o trascinarli a tavolino e spesso tenerveli per forza fino alla fine della lezione. Spesso, messo Tom in un angolo, mi sedevo di fronte a lui con il libro su cui c'era il piccolo brano che doveva recitare o leggere prima che lo lasciassi in libertà. Non era abbastanza forte per portare via me e la seggiola, così cominciava a contorcere corpo e viso in pose grottesche, comiche certamente per uno spettatore, estraneo, ma non per me. Ad emettere gemiti e grida che voleva spacciare per pianto ma senza neppure una lacrima. Capivo che lo faceva soltanto per tormentarmi e quindi, anche se dentro fremevo di impazienza e di irritazione, mi sforzavo coraggiosamente di soffocare ogni segno palese di turbamento e fingevo di attendere impassibile che avesse smesso col passatempo e che volesse meritare di correre in giardino col posare gli occhi sul libro e leggere o ripetere le poche parole della lezione. A volte si ostinava a scrivere male il compito e dovevo reggergli la mano per impedirgli che apposta macchiasse e scarabocchiasse la pagina. Spesso lo minacciavo che se non scriveva meglio gli avrei fatto scrivere un'altra riga, allora si rifiutava caparbiamente. E per mantenere la parola dovevo ridurmi all'espediente di reggergli le dita sulla penna e trascinargli a forza la mano su e giù fino a che, nonostante la sua resistenza, la riga fosse scritta in qualche modo. Eppure Tom non era il più intrattabile dei miei allievi. Con mia gran gioia qualche volta aveva il giudizio di riconoscere che la politica più saggia era di finire i suoi compiti e andare fuori a divertirsi finché io e sua sorella non andavamo a raggiungerlo, cosa che non avveniva molto di frequente perché Marianna raramente seguiva il suo esempio. Evidentemente la bambina preferiva arrotolarsi sul pavimento a qualsiasi altro divertimento. Si lasciava cader giù come un peso morto. E quando con grande difficoltà riuscivo a metterla in piedi, dovevo ancora reggerla con un braccio mentre con l'altro tenevo il libro su cui doveva leggere o sillabare la lezione. Quando il peso di questa bambinona di 6 anni gravava troppo su un braccio, la passavo sull'altro e se tutti e due erano stanchi del fardello, la mettevo in un angolo e le dicevo che sarebbe uscita solo quando avesse riacquistato l'uso dei piedi e stesse dritta. Ma preferiva di solito rimanere là come un ceppo, fino all'ora del pranzo o del tè, quando, poiché non potevo privarla del pasto, doveva essere liberata e si trascinava fuori con un'espressione di trionfo sulla faccia tonda e rossa. Spesso si rifiutava ostinatamente di pronunciare certe parole della lezione e ora rimpiango la fatica sprecata per vincere la sua cocciutaggine. Se ci avessi pensato sopra come a una cosa di nessuna importanza, sarebbe stato meglio tanto per me che per lei, piuttosto che fare degli sforzi gettati al vento. Ma Credevo di avere il dovere categorico di correggere finché era in germe la sua cattiva inclinazione e che l'avrei ridotta all'obbedienza se i miei poteri fossero stati meno limitati. Ma, così stando le cose, si trattava di una prova di resistenza fra noi due, in cui di solito usciva vittoriosa lei e nella quale ogni vittoria serviva a incoraggiarla e a rafforzarla per una nuova contesa. Invano ragionavo, la lusingavo, pregavo, minacciavo, invano la privavo della ricreazione o se per forza dovevo portarla fuori mi rifiutavo di giocare con lei o di parlarle con dolcezza. Invano le mostravo i vantaggi di obbedire, di essere docile, così da essere amata e trattata con amorevolezza e il danno di persistere nella sua assurda cattiveria. Qualche volta, se mi chiedeva di fare qualcosa per lei, rispondevo: sì, te la farò, Marianna, se ripeterai quella parola. Su. È meglio che tu la ripeta subito, così non avrai più fastidi. No, allora naturalmente non te la farò. Quando avevo la sua età e anche meno, essere trascurato in disgrazia era per me la peggiore delle pene, ma lei non faceva nessuna impressione. A volte, esasperata all'estremo, la scuotevo violentemente per le spalle, o la tiravo per i suoi lunghi capelli, o l'imprigionavo in un angolo della stanza. Per cui si vendicava lanciando urli strazianti che mi attraversavano il cervello come lame. Sapeva che mi faceva male, dopo aver gridato a più non posso, mi guardava con aria di vendetta soddisfatta ed esclamava: Beh, questo è per lei. E poi continuava a urlare finché dovevo tapparmi le orecchie. Spesso queste strida terribili erano sentite dalla signora Bloomfield che veniva a chiedere di che si trattava. Marianna è una bambina cattiva, signora. Ma che cosa sono queste grida insopportabili? Grida di rabbia. Non ho mai sentito un putiferio simile. Si direbbe che la stia ammazzando, perché non è fuori col fratello? Beh, non riesco a ottenere che finisca la lezione. Ma Marianna, devi fare la brava e finire la lezione, diceva lei blandamente alla bambina, e spero che non avrò più da sentire di nuovo quegli strilli. E posando su me i suoi occhi freddi, con un'espressione che non poteva lasciare dubbi, chiudeva la porta e si allontanava. Qualche volta pensavo di prendere la piccola testarda di sorpresa e di farle qualche domanda mentre stava pensando a qualcos'altro. Spesso cominciava a dirla, poi improvvisamente si fermava con uno sguardo provocante che sembrava dire: Ah, sono più furba di quel che mi crede, non mi coglierà di sorpresa. Altre volte fingevo di dimenticare la cosa e chiacchieravo e giocavo con lei come di consueto fino a sera e quando la mettevo a letto, allora, curvandomi su lei, mentre era tutta allegra e sorridente, al momento di lasciarla dicevo con la stessa bontà e gaiezza di prima: Oh, Marianna, dimmi quella parola prima che ti dia il bacio e la buonanotte. No, non voglio dirla. Allora non posso darti il bacio. Bene, non mi importa. Invano esprimevo il mio dispiacere, invano aspettavo qualche segno di contrizione, veramente non gliene importava. E la lasciavo sola e al buio, più che altro meravigliandomi di questa prova ultima di testardaggine insensata. Quando ero bambina io non potevo figurarmi una punizione più dolorosa che quando mia madre rifiutava di darmi il bacio la sera. La sola idea era terribile. Fortunatamente non ne avevo avuto che l'idea, perché non avevo commesso una colpa che fosse stata giudicata meritevole di tale castigo, mai. Ma mi ricordo di una volta che per una mancanza di mia sorella mia madre giudicò che era il caso di impogliela. Non posso descrivere quel che ella provò, ma non dimenticherò le lacrime di dispiacere che versai per lei. Un'altra seccante, incorreggibile inclinazione di Marianna era quella di correre a giocare con le sorelline e con le bambinaie. Era naturale, ma poiché era contrario al desiderio esplicito di sua madre, naturalmente dovevo proibirglielo e facevo il possibile per tenerla con me. Ma questo non serviva che ad aumentare la voglia di andare con le bambine e più cercavo di tenerla lontana, più spesso ci andava e più a lungo vi si tratteneva, con grande scontento della signora Bloomfield, che ben sapevo riversava su me tutta la colpa. Un'altra delle mie prove di pazienza era il vestirla la mattina. Una volta non voleva essere lavata, un'altra non voleva essere vestita se non con quel tale abito che sapeva che la madre non permetteva che portasse, un'altra ancora strillava e scappava appena le toccavo i capelli. Così spesso, quando dopo molta rabbia e fatica ero finalmente riuscita a condurla da basso, la colazione era quasi finita. E le occhiatacce della mamma e le osservazioni aspre del babbo al mio indirizzo, anche se non espresse a parole, non mancavano di assegnarmi il premio, poiché poche cose irritavano il signor Bloomfield più che la mancanza di puntualità ai pasti. fra le seccature minori, poi c'era la mia incapacità a soddisfare la signora Bloomfield nell'abbigliamento di sua figlia, e i capelli della bambina non erano mai presentabili. Qualche volta, perché mi fosse di lezione, si prendeva lei il fastidio di pettinarla, poi si lagnava amaramente. Quando venne nella sala studio la piccola Fanny, sperai che almeno lei sarebbe stata dolce e inoffensiva, ma pochi giorni dopo, per non dir poche ore, bastarono per distruggere quell'illusione. Scoprì che era una creatura capricciosa, indocile, propensa alla menzogna e alla finzione, benché piccola, e in modo preoccupante amante di servirsi delle sue armi preferite di offesa e difesa, ossia di sputare in faccia quelli che le andavano in disgrazia e di mugghiare come un toro quando i suoi desideri irragionevoli non venivano soddisfatti. Siccome di solito era abbastanza tranquilla alla presenza dei genitori, questi, convinti che fosse una bambina buonissima, credevano a tutte le sue menzogne e i suoi strilli facevano loro supporre che la trattassi con sconveniente durezza, e quando alla fine le sue disposizioni divennero chiare anche ai loro occhi prevenuti, capii che tutta la colpa era riversata su me. «Che bambina cattiva diventa Fanny», diceva la signora Bloomfield a suo marito. «Non notate, mio caro, com'è cambiata da quando ha messo piede nella sala studio? Presto sarà cattiva come gli altri due, e mi spiace dire che sono molto peggiorati in questi ultimi tempi». «Avete ragione», rispondeva quello. «Sono anch'io della stessa opinione. Credevo che quando avessero avuto una governante sarebbero migliorate, ma invece peggiorano sempre di più. Non so se fanno progressi nello studio, ma certo le loro abitudini non migliorano affatto. Diventano più maleducati e più sporchi ogni giorno di più». Sapevo che queste parole erano dette perché io le sentissi, e queste simili frasi indirette mi ferivano molto più profondamente di qualunque accusa aperta, perché contro quest'ultima mi sarei potuta difendere. Ma pensai che la cosa più saggia era reprimere ogni impulso di risentimento, vincere ogni ripugnanza e continuare con perseveranza a fare del mio meglio. Perché, per quanto penosa fosse la mia situazione, desideravo vivamente di conservarla. Pensavo che se potevo continuare a lottare con fermezza e lealtà, i bambini un giorno sarebbero diventati più umani. Col passare dei mesi sarebbero diventati un poco più saggi e quindi più trattabili. Perché un bambino di 9 o 10 anni che si fosse conservato indocile e forsennato come uno di 6 o 7 sarebbe stato un anormale. Mi lusingavo di essere utile ai miei genitori e a mia sorella, rimanendo dov'ero, perché per quanto modesto fosse il salario, era sempre un guadagno e con molta economia potevo facilmente mettere da parte qualcosa per loro se si fossero persuasi ad accettarla. E poi ero stata io a volere quel posto. Mi ero tirata addosso tutte quelle tribolazioni ed ero decisa a sopportarle, e anzi a non pentirmi del passo fatto. Ero vivamente desiderosa di mostrare ai miei familiari che ero capace di assolvere il mio compito e in grado di comportarmi con onore fino alla fine, e se mi capitava di trovare poco dignitoso e sottomettermi così quietamente o intollerabile il lottare con tanta costanza, mi volgevo verso la mia casa e dicevo: «Mi metteranno in croce, ma non mi schiacceranno. A te penso, non a loro». Verso Natale ebbi il permesso di fare una visita a casa. Le mie vacanze furono solo di 15 giorni, perché, disse la signora Bloomfield, siccome ha visto da poco i suoi parenti, non ci terrà a stare con loro più a lungo. La lasciai nella sua idea, perché non poteva capire quanto lunghe e quanto faticose erano state per me quelle 14 settimane di assenza, quanto desideravo ardentemente le vacanze e quanto ero delusa che fossero brevi. Tuttavia non c'era da biasimarla per questo, non le avevo mai espresso i miei sentimenti e quindi non poteva indovinarli. Non era ancora un anno che stavo con lei e aveva ragione di non concedermi delle vacanze complete. Capitolo 4. La nonna. Risparmio ai lettori e alle lettrici il racconto della gioia provata nel ritornare a casa, della felicità che godetti nel breve periodo di riposo e di libertà che passai in mezzo alle persone che amavo e da cui ero amata, e del dolore che sentii quando dovetti dar loro ancora una volta un lungo addio. Ritornai tuttavia con coraggio inalterato a un compito più arduo di quel che potete immaginare se non siete mai stati responsabili o state responsabili dell'educazione e dell'istruzione di un branco di ribelli capricciose e turbolenti, che nessun mezzo può ridurre al dovere, mentre contemporaneamente vi sentite responsabile verso i genitori che rifiutano di concedervi qualsiasi autorità. Non si può immaginare situazione più incresciosa di quella nella quale, desiderose di riuscire facendo il possibile per compiere il proprio dovere, i vostri sforzi siano frustrati e annientati da quelli che vi sono inferiori e criticati ingiustamente e misconosciuti da quelli che vi sono superiori. Non ho enumerato neppure la metà delle tendenze riprovevoli dei miei allievi, né la metà delle noie risultanti dalle mie gravi irresponsabilità per timore di abusare della pazienza del lettore, cosa che forse ho già fatto. Ma il mio scopo, scrivendo queste ultime pagine, non è stato di divertire, ma di essere utile a coloro ai quali esse interessano. Chi non sente interesse per tali questioni certamente avrà letto di corsa le pagine maledicendo la prolissità della scrittrice, ma se un genitore vi avrà raccolto un consiglio, una governante sfortunata vi avrà trovato un ausilio, sia pur piccolo, io sarò ben ricompensata della mia fatica. Per evitare tedio e confusione, ho preso i miei scolari uno per uno e ho descritto i loro diversi caratteri, ma questo non dà un'idea adeguata di quando ero tormentata da tutti e tre insieme e di quando, come spesso accadeva, tutti si proponevano di fare i cattivi ed esasperare la signorina Grey e farle perdere la pazienza. Qualche volta, in questi momenti, un pensiero mi attraversava improvvisamente la mente. Se loro mi vedessero ora, intendendo naturalmente per loro i miei familiari, e l'idea di quanto mi avrebbero compatita mi faceva compiangere me stessa tanto profondamente che a stento trattenevo le lacrime. Ma le trattenevo, fino a che i miei piccoli tormentatori scendevano per il pasto o andavano a letto, gli unici miei momenti di libertà. E allora, sola soletta, mi concedevo il lusso di uno sfogo di pianto, ma era una debolezza a cui non mi abbandonavo spesso. Le mie occupazioni erano troppo numerose. I miei momenti di respiro troppo preziosi perché potessi consacrare molto tempo a lamenti inutili. Rammento in modo particolare un triste pomeriggio nevoso di gennaio, poco dopo il mio ritorno. I bambini erano tutti saliti dopo il pranzo, dichiarando rumorosamente che intendevano fare i cattivi e avevano mantenuto la promessa, benché avessi parlato fino a diventare rauca e avessi stancato ogni muscolo della laringe nel vano tentativo di ridurli alla ragione. Avevo inchiodato Tom in un angolo da dove gli dissi non sarebbe uscito fino a che non avesse finito il compito. Intanto Fanny si era impadronita della mia borsa da lavoro e stava saccheggiando nel contenuto e, come non bastasse, sputandoci dentro. Le ordinai di lasciarla, ma naturalmente senza risultato. «Gettala nel fuoco, Fanny!» gridò Tom. Ed ella si affrettò a obbedire. Mi slanciai per salvarla e Tom schizzò verso la porta. Marianna, getta la sua cartelletta fuori dalla finestra, gridò il ragazzo. E la mia cara cartelletta che conteneva le mie lettere, i miei fogli, il mio poco denaro e tutto quello che possedevo di prezioso fu lì per precipitare dalla finestra del terzo piano. Volai alla sua salvezza, ma frattanto Tom aveva lasciato la stanza e si era scapicollato giù per le scale, seguito da Fanny. Messa al sicuro la cartelletta, corsi all'inseguimento dei ragazzi e Marianna mi venne dietro. Tutti e tre mi sfuggirono e corsero fuori in giardino, dove entrarono nella neve levando grida di trionfo e di gioia. Ah, che cosa dovevo fare? Se li avessi seguiti mi sarebbe stato impossibile raggiungerli e non sarei riuscita che a farli allontanare di più. Se non li avessi seguiti, come farli rientrare in casa? E che cosa avrebbero pensato di me i genitori se avessero visto i bambini sfrenati in mezzo alla neve alta, senza cappello, senza guanti, senza stivaletti? Ah. Mentre ero in piedi dinanzi alla porta, in questa perplessità, cercando con sguardi e parole severe di indurli all'obbedienza, udii una voce aspra dietro di me esclamare: Signorina Grey, possibile? A che diavolo state pensando? Non posso farli rientrare, signore, dissi, voltandomi e scorgendo il signor Bloomfield coi capelli irti sulla testa e gli occhi azzurro pallido che uscivano dalle orbite. Ma io insisto perché li faccia rientrare, gridò avvicinandosi con l'aria furiosa. Allora, signore, li chiami lei, per favore, perché non vogliono ascoltare me, risposi tirandomi indietro. Rientrate subito, sudicioni, o vi frusterò tutti, egli gridò. E i bambini obbedirono all'istante. Ecco, vede? Vengono alla prima parola. Sì, quando li chiama il padre. È molto strano che lei, a cui sono affidati, non riesca a farsi ascoltare. Ora, Eccoli che salgono le scale con i piedi sporchi di neve. Li segue e cerchi di metterli decenti, per amor del cielo. In quel tempo c'era in casa la madre del signor Bloomfield, e salendo le scale, passando dinanzi alla porta del salotto, ebbi la soddisfazione di udire la vecchia signora declamare a questo proposito alla nuora, perché potei distinguere solamente le parole più enfatiche: Santo cielo, mai in vita mia causerà sicuramente la loro morte. Come pensi, mia cara, che sia la persona adatta, credi a me. Sentii solo questo, ma mi bastò. La signora Bloomfield, madre, era stata molto gentile con me e fino allora l'avevo ritenuta una brava vecchia di buon cuore e chiacchierona. Era spesso venuta a discorrere con me in tono confidenziale, con scuotimenti della testa e gesticolamenti di mani e di occhi, come suole fare una certa categoria di vecchie signore, benché non ne avessi conosciuta nessuna che spingesse a tal punto quella particolarità. Dimostrava anche la sua simpatia per i fastidi che avevo coi bambini ed esprimeva di tanto in tanto, con mezze frasi intercalate da cenni del capo e occhiate significative, il suo biasimo per la condotta poco giudiziosa della nuora, che mi aveva così ristretto i poteri e che non mi appoggiava con la sua autorità. Questo modo di dimostrare la sua disapprovazione non era molto di mio gusto, in genere rifiutavo di accettare o intendere più di quello che mi era detto esplicitamente, ossia mi limitavo a farle capire che se le cose fossero state disposte altrimenti il mio compito sarebbe stato meno difficile. E sarei stata maggiormente in grado di educare e istruire i miei allievi, ma ora dovevo essere doppiamente prudente. Fino a quel momento, benché sapessi che la vecchia signora aveva i suoi difetti, dei quali uno era la tendenza a promulgare le sue perfezioni, ero stata sempre desiderosa di scusarli e di darle credito per tutte le virtù che possedeva, e perfino immaginarne altre non dette. La bontà, che era stata per tanti anni l'alimento della mia vita, mi era in quegli ultimi tempi tanto completamente venuta a mancare che avevo accolto con gratitudine quella che pur pallidamente le assomigliava. Nessuna meraviglia quindi che mi affezionassi alla vecchia signora e che mi rallegrassi al suo arrivo e rimpiangessi la sua partenza. Ma ora, le poche parole udite per sfortuna o fortuna mentre passavo avevano completamente capovolto la mia opinione a suo riguardo. Ora la giudicavo ipocrita, insincera, un'adulatrice, una spia delle mie parole e delle mie azioni. Sarebbe stato nel mio interesse di riceverla ancora con lo stesso sorriso e con lo stesso tono di cordialità rispettosa di prima, ma anche volendo non avrei potuto. I miei modi cambiarono insieme ai miei sentimenti e diventarono così freddi e riservati che ella se ne accorse. Se ne accorse subito e anche i suoi modi cambiarono. Il suo saluto familiare si mutò in un inchino rigido. Il sorriso amabile diede luogo a uno sguardo da gorgone, la sua loquacità vivace invece che a me fu tutta diretta al caro ragazzo e alle care bambine, che furono da lei accarezzate e viziate più apertamente di quel che non fossero mai state dalla madre. Confesso che fui un poco turbata da questo cambiamento. Temevo la conseguenza del suo scontento e perfino feci qualche tentativo per riconquistare il terreno perduto e con successo maggiore di quel che avessi sperato. Una volta, per pura cortesia, chiesi come andava la sua tosse. Immediatamente la sua faccia si rilassò in un sorriso e mi onorò della storia particolareggiata di quelle e delle altre sue infermità, seguita dal racconto della sua pia rassegnazione, esposta nel solito stile enfatico che è impossibile riprodurre. Ma c'è un rimedio a tutto, mia cara, e questa è la rassegnazione. Un movimento della testa. Rassegnazione al volere del cielo, elevazione delle mani e degli occhi. Questa mi ha sempre sostenuta attraverso tutte le prove e sempre mi sosterrà. Un seguito di cenni del capo. Non tutti possono dirlo, scuotimento della testa. Ma io sono una persona pia, signorina Grey. Un cenno e un movimento della testa molto significativo. E grazie al cielo lo sono sempre stata. Altro cenno. E me ne vanto. Battito di mani e scuotimento della testa. E con parecchi passi della Bibbia, male citati o male applicati, ed esclamazioni religiose così scoppiettanti di comicità per il modo con cui erano espresse, se non per se stesse, che vi risparmio, si ritirò agitando la grossa testa molto soddisfatta di sé, almeno, e mi lasciò nella speranza che in fondo fosse più debole che cattiva. Alla sua nuova visita a Wellwood House, Giunsi al punto di esprimerle la mia contentezza di vederla con una così buona cera. L'effetto fu magico. Le parole dette solo per cortesia furono accolte come un complimento adulatore. Si illuminò in volto e da quel momento diventò graziosa e dolce in modo incredibile, almeno esteriormente. Da quel che vedevo di lei e da quel che avevo sentito dai bambini, sapevo ormai che mi sarebbe bastato pronunciare una parola di adulazione al momento opportuno per conquistare la sua amicizia. Ma questo era contro i miei principi e appunto perciò la bizzarra vecchia donna mi tolse subito il suo favore e credo mi fece molto male in segreto. Non poteva avere grande influenza contro di me sulla nuora, perché fra suocera e nuora esisteva un'antipatia reciproca, che nella suocera si manifestava in maldicenze segrete e calunnie, nella nuora nel comportarsi con una freddezza e formalità esagerate. Nessuna adulazione della più vecchia riusciva a fondere il muro di ghiaccio che aveva innalzato la più giovane. Ma col figlio, la vecchia signora aveva più successo. Egli prestava orecchio a quello che ella aveva da dirgli, purché lisciasse il suo carattere scontroso e non lo irritasse con la sua bruschezza. E ho ragione di credere che ella rafforzò di molto le prevenzioni di lui nei miei riguardi. Gli diceva certo che trascuravo vergognosamente i bambini e che neppure sua moglie vegliava su di loro come avrebbe dovuto e che doveva sorvegliarli di persona, altrimenti sarebbero andati a finire male. Così, stimolato, egli si prendeva di frequente la briga di sorvegliarli dalla finestra mentre giocavano. Qualche volta li seguiva per le sue terre e molto spesso capitava su di loro all'improvviso mentre stavano giocando allo stagno proibito o mentre nelle stalle parlavano col cocchiere o si trastullavano nell'immondizia in cortile e io nel frattempo stavo lì a guardarli, avendo già in inutili tentativi di trascinarli via esaurite tutte le mie forze. Oppure ficcava la testa all'improvviso nella sala studio nei momenti dei pasti e li sorprendeva che versavano il latte sulla tavola e sui vestiti, che ficcavano le dita nella tazza propria in quella altrui e che si bisticciavano per i cibi come una covata di tigrotti. Se in quel momento me ne stavo quieta, favorivo la loro condotta indisciplinata. Se, come spesso accadeva, alzavo la voce per ristabilire l'ordine, mi servivo di una violenza sconveniente e davo il cattivo esempio alle bambine con la volgarità del tono e del linguaggio. Ricordo un pomeriggio di primavera in cui, poiché pioveva, non potevamo uscire. Per una fortuna insperata, avevano tutti finito i loro compiti, eppure si astenevano dal correre da basso a tormentare i genitori, un'abitudine che mi seccava molto, ma che nei giorni piovosi raramente riuscivo a impedire perché da basso trovavano novità e distrazione, specialmente quando c'erano visite. La madre, sebbene mi ordinasse di tenerli nella sala studio, non li rimproverava mai quando ne uscivano, né si prendeva il disturbo di mandarli indietro. Ma quel giorno pareva che fossero contenti di stare dove stavano e, cosa ancora più straordinaria, parevano disposti a giocare insieme senza il mio aiuto e senza bisticciare fra loro. Erano occupati a un gioco strano. Stavano accoccolati insieme accanto alla finestra su un mucchio di giocattoli rotti e una quantità di uova di uccelli, o meglio di gusci d'uova perché il contenuto per fortuna era stato tolto. Avevano rotto e ridotto in piccoli frammenti questi gusci, a quale scopo non potevo comprendere, ma finché stavano buoni e non facevano danni li lasciavo fare. E con un senso di riposo insolito, sedevo vicino al fuoco mettendo gli ultimi punti a un vestito della bambola di Marianna, con l'intenzione, appena finito, di cominciare una lettera per mia madre. Improvvisamente la porta si aprì e la testa bruna del signor Bloomfield guardò dentro. «Quanta calma! Che cosa state facendo?» disse. «Oggi fortunatamente niente di male», pensai io. Ma egli fu di diversa opinione. Avvicinatosi alla finestra e vista l'occupazione dei bambini, gridò stizzosamente: «Che diavolo fate?» «Trituriamo i gusci d'uovo, babbo!» gridò Tom. «Come osate fare un simile pasticcio, diavoli? Non vedete come riducete il tappeto?» Il tappeto era di un tessuto scuro e comune. «Signorina Gray, lei sa che cosa stanno facendo?» «Sì, signore.» «Lo sa?» «Beh, sì.» «Lo sa e se ne sta là seduta? E permette che continuino senza dire una sillaba di rimprovero?» «Beh, non credevo che stessero facendo un qualche danno.» «Qualche danno? Ecco, guardi là, volga gli occhi al tappeto e guardi. Si è mai visto una cosa simile in una casa per bene?» Niente di strano che la sua stanza sembri un porcile, niente di strano che i suoi scolari siano più sporchi di una mandria di porci. Niente di strano, oh, devo pur dirlo, sono al colmo della mia pazienza. E uscì, sbattendo la porta con un fracasso che fece scoppiare a ridere i ragazzi. Anche io sono al colmo della pazienza, mormorai, e afferrate le molle, le sbattei nelle ceneri più volte e le agitai con energia insolita per dar sfogo all'irritazione col pretesto di attizzare il fuoco. Da quel giorno il signor Bloomfield sorvegliava continuamente se la sala studio era in ordine e siccome i bambini sparpagliavano continuamente sul pavimento pezzi di giocattoli, bastoni, sassi, stoppie, foglie e altri oggetti che non potevo impedire che si portassero dentro casa o costringerli a raccogliere, oppure che i domestici si rifiutavano di spazzare, dovevo sciupare una parte notevole dei miei preziosi momenti di riposo in ginocchio per terra a rimettere le cose in ordine. Una volta dissi che avrebbero saltato la cena se non avessero raccolto ogni cosa dal tappeto. Fanny avrebbe potuto mangiare la sua quando avesse raccolto una certa quantità, Marianna quando avesse raccolto il doppio e Tom quando avesse sgomberato il resto. Cosa strana, le bambine fecero la loro parte, ma Tom fu preso da tale stizza che si lanciò sulla tavola, gettò il latte e il pane per terra, picchiò le sorelle, scaraventò a calci il carbone fuori del secchio, tentò di rovesciare il tavolo e le sedie come se volesse mettere a sacco tutta la stanza. Ma la afferrai e spedì Marianna a chiamare la mamma. Lo tenni stretto nonostante tirasse calci e strattoni e nonostante i suoi strilli e improperi, fino a che non comparve la signora Bloomfield. Che succede al bambino? Quando le fu spiegata la cosa, tutto quel che fece fu di chiamare la bambinaia a mettere in ordine la stanza e portare la cena al signorino Bloomfield. «Beh!» esclamò Tom con aria di trionfo, alzando la testa dal piatto e parlando a stento, tanto aveva piena la bocca di carne. «Beh, signorina Gray, vede che ho avuto la cena lo stesso e non ho raccolto un bel niente?» L'unica persona in casa che avesse della vera simpatia per me era la bambinaia, perché doveva sopportare le stesse pene, sebbene in grado minore, poiché non aveva l'incarico dell'insegnamento né era responsabile quanto me della condotta dei bambini a lei affidati. «Oh, signorina Gray», diceva, «ne ha di fastidi con quei bambini». «Eh sì, proprio, Betty. E lei sa bene che cosa?» «Sì, lo so, ma io non mi struggo come fa lei. E poi, vede, qualche volta tiro un cefone e ai piccoli una buona bacchettata di tanto in tanto. Non c'è cura migliore, come suol dirsi. Però con questo ho perduto il posto». «Davvero, Betty? Ho sentito che ci lascerà». «Dio mio, sì. La signora mi ha avvertita 3 settimane fa. Mi ha detto prima di Natale come sarebbe andata a finire se li avessi ancora picchiati, ma mi è impossibile con loro tener ferme le mani. Non so come fa lei, perché la signorina Marianna è molto peggiore di tutte le altre sorelle».